quando si è trattato di costruire la nostra casa di Nazareth, di Ginese, sul Lago Maggiore, avuti tutti i permessi, l'architetto Angelo Manzini ha avuto un'idea che subito non ha incontrato né le simpatie mie né quelle degli altri. C'era in quel fondo un posto acquitrinoso dove si raccoglieva dell'acqua, l'acqua della montagna per così dire, e lì c'erano rovi, spine, e lì nascevano zanzare. Se c'era un posto brutto in quel magnifico parco, parco di faggi, bellissimo, era proprio quello. E un giorno viene a dirmi, con tutte le fotografie, l'aveva già sistemato lui tutto nella sua testa: guardi padre, che noi la casa nuova la costruiamo su questo posto così brutto. Dico, architetto, ma proprio questo? Sì, lasci fare a me, perché è bellissimo, vedrà, lei non se lo immagina, io me lo vedo già nella testa, qui, su questo punto qui, così brutto, così malsano, ci spenderemo dietro, dice, anche un piccolo capitale di cemento armato, perché bisogna far deviare quell'acqua e bisogna colmare quei vuoti, lasci fare a me. Pensaci e ripensaci, la sovrintendenza ha dato il nulla osta, interessata anche la sovrintendenza che quello obbrobrio sparisce, e su quell'obbrobrio sparito è la casa nuova, con la chiesa molto bella, che avete visto tanti di voi, della casa di Nazareth di Ginese, sopra Stresa, Lago Maggiore. Io vi propongo questa immagine, questa similitudine, perché vi confortiate. Proprio il Signore si esalta in questo modo. Da una pezza da piedi il Signore può ricavare un abito da santo, un santo. E questo per noi è un grande respiro. Passato, passato, lasciamolo stare. Su un passato tristissimo molti santi hanno costruito un destino eterno di grazia e di gloria, dal peccato alla gloria, dal peccato alla gloria. Potremmo dare questo super titolo a ogni biografia di santi e di sante. Io penso che la massima parte potrebbero i santi sottoscrivere, dal peccato alla gloria. Sopra un terreno così infido, sopra un passato così triste, si è innalzato il monumento più bello, il monumento della misericordia di Dio.